10, cambio. Guarda, adesso aumento, quindi adesso sono Oh, la vista, mamma mia, che casino che sta aumentando, eh. Ecco, adesso sono 4 watt, prova, sembra che sia più o meno uguale, aumenta ancora, 10 watt, vediamo, 10 watt, diamole qualcosa in più se ce la dà. Ecco, adesso sono 18 watt all'incirca, è cambiato qualche cosa? Sì, un bel ciambatto, si a fondo scala, sì, oramari. Ma sei vicino a me, cavolo, sei un bel forte qua di modulazione. Già, con pochi fatti qua, uscivi una cannonata, pompava forte. Boh, non lo so, io sono alla periferia di Sassari, l'antenna è una Game Master, evidentemente il vento, la pioggia le ha fatto ancora male. Ha fatto meglio al posto di distruggerla, l'ha fatto meglio, adesso ho riabbassato e ho messo di nuovo un watt e niente, io trasmetto sempre di norma con potenze molto basse perché siccome ci sono anche altre radio accese e quindi non voglio avere niente adesso, anche se tutto fatto a regola d'arte, però sai, non è che poi ai ricevitori se si guastano in ricezione è un casino, eh. Non è come quando si guasta il finale o quelle cose lì, quindi preferisco starmene al sicuro, tanto mi sentono lo stesso, quindi non c'ho problemi, però mi fa piacere che stia arrivando comunque decentemente, non ci contavo in AM, però legge bene. Tutta roba anche in parte autocostruita per quello che riguarda i sistemi di interfacciamento perlomeno. Bene, bene, Anto, anche tu stai arrivando bene comunque. Tranquillo, senza la radio ottima. Tieni presente che ti sto ascoltando con una cuffia Bluetooth. Ciao. È una cosa allucinante di segnale qua, c'è un bel forte. Ma veramente, io ti vedo con l'antenna, perché non è possibile che arrivi così forte. Ricordami dove sei, tu dovresti essere zona stazione o zona Corso Trinità, in quella zona lì, dai. Zona stazione. Beh sì, io... zona ottica, io vedo anche la cupola, come si chiama, vabbè, di Santa Maria, dai, metto il cannocchiale da sopra e la vedo, vedo tutta Sassari, tutta Usilo, vedo anche le macchine che si posteggiano al coso lì, come si chiama, la Santa Vittoria, dai, con la collina alta, vedo le luci, i fari. Parte di Sennori, anche dove c'è l'antenna lì, quella della questa televisiva, non so, sono invece coperto verso Porto Torres purtroppo, però non tutto si fa bene, no? Beh certo, no, qua sicuramente se poi si vede la chiesa di Santa Maria sei lontano un gioco, sicuramente vedi anche il Duomo, io sono in cosa, cioè se vedi il Duomo da lì di Sassari, tu a me mi vedi, per quello che mi arrivi così forte, mi vedi con l'antenna. Beh sì, indubbiamente, io quando utilizzo il binocolo vedo dal terrazzo di sopra, ma l'antenna è molto più alta del terrazzino, ecco, quindi ti vede ancora meglio. No, la zona è buona, è anche buona anche a volte sento in diretta anche Cagliari, perché sono esposto bene verso sud, diciamo, vedo tutta la zona lì, la montagna di Ploaghe, di Monte Lerno, quando entra qualcuno anche da Sieri lo sento, quindi la zona è buona, eh. Se fosse poco più in alto sarebbe eccellente, veramente, perché io in realtà risulto non risulto proprio in alto rispetto alla zona, però insomma non accontentarsi, non si può avere tutto, non si può cambiare casa perché non si arriva su certe parti, no? Lo so, no, qua c'è una cannonata, sì, non so quanto ti arrivo io, ma sei un bel forte, un bel forte. Guarda, qua sei un 9-10, un 9-10, 9-10, 9-15, ma tieni presente che è un segnale sempre digitale, quindi lascia il tempo che trova. Sì, un 9-10 dovrebbe essere, questo arriva a 9-60 come cosa. Però tieni presente che anche in questo caso non utilizzo più amplificatore d'antenna, che volendo c'è, saliresti a un 9-20 forse, ma siccome l'apparato è esagerato, un po' come sensibilità, non è il caso di attaccare più amplificatore, se no è un po' un casotto. Allora, sto uscendo con poca potenza, neanche 10 watt. Già va bene. Sì, dimmi una cosa, i sottofondi si sentono o è abbastanza silenzioso come microfono? Ma qualche cosina, qualche cavolata, ma niente di che. Ah, ottimo, perché sono quelle cuffie piccole col microfono attaccato alla bocca, diciamo. Questo va benissimo di notte, no? Quando non vuoi disturbare, anche se qua c'è poco a disturbare perché sono in campagna, però per abitudine la notte preferisco che non si senta niente al di fuori. Ottimo, ottimo, è una grande soddisfazione perché non me l'aspettavo che funzionasse anche qua in AM. Bene, bene, bene. E allora Antu, tutto bene, passato tranquillo queste strane festività, perché veramente sono un po' strane per tutte, una cosa un po' anomala. Sì, tutto bene, tutto bene. Ah, no, ci sono divertiti qua a casa e basta. E onde vuoi andare? Tanto cosa. Perché fuori è successo un po' di tutto, soprattutto con quelli cavoli di fuochi d'artificio. Due ci hanno perduto la mano anche, cioè utilizzando visti, adesso non mi viene il nome, quelle specie di bombe a mano, cioè di bombe carta, anzi, cose micidiali, ma affidarsi, ve lo chiuso, mamma mia, cioè perdere la mano per una stronzata. Io posso capire che ti può capitare al lavoro, magari metti la mano dove non la devi mettere per distrazione, ma quelli sono incidenti di lavoro, ma questi che rischiano sapendo di rischiare, per una cazzata. La colpa è che vanno messi in mano a mocciosi e a gente che non è esperta. Io in tanti anni non mi sono mai fatto male, perché le ho sempre saputi accendere, pure so come si accendono e so come funzionano, e quindi ne ho sparato tanti io, e tanti roba potente pure. Non mi sono mai fatto male, perché li so sparare, li so accendere, li so sparare. Mettono in mano proprio questi caganito, mettono in mano. E a gente che non capisce niente, che non sa neanche accendere, cioè, manca un minicicciolo li farei accendere. È come quelle persone che fanno ad accendere, a puntare l'arma carica in faccia agli altri, no? Si girano con disinvoltura, col fucile, con la pistola che sia, poi se parte il colpo si meravigliano, perché come dicono a sorso, no? Lo demonio è sempre in agguato, pronto a rovinarti, quindi ci sono delle regole. Tu pensa che i militari, quando devono scaricare, non sparare, ma solo scaricare l'arma, devono entrare dentro, puntarla dentro un sacco, una specie di contenitore speciale, nel caso ho fatto un colpo e togliere il caricatore, questo quando fanno le registrazioni ovviamente, poi quando sono operativi è tutto un altro discorso, però per scaricare l'arma sempre puntato verso questo contenitore è scaricata. Ma cazzo, ma sta scherzando, uno che la sta a scaricare no, non spara nemmeno, cioè né togliere il colpo come niente, uno che le sa fare le cose. E il problema più grosso di queste cose qua, che c'è troppa gente che io non gli darei manco di quei petardini piccoli in mano a toccare, ma manco una pistola, non sono gente da mettere roba in mano così, alla fine non le sanno usare le cose, non le sanno idratare. Cosiddetti qua. Così li chiamavamo, qua. Ma stai scherzando, che non sono gente di non darle manco. Cioè, ma ti pare che un ragazzino di 13 anni, 14 anni va a darle, non ne comprende nulla. Va a darle in mano un casino, una cosa del genere, una bomba. Deve usare la persona che siano competenti, che guardano cosa stanno facendo. Non è che pigli una cosa del genere, un bombettone per dare in mano. Il babbo e la mamma vorrebbero pigliare e piccare il buruetto, cioè il babbo soprattutto, che li fa sparare queste cose, o chi glieli dà. Cioè, ma stai scherzando, siamo. Prima le regole, poi l'uso, come sempre. Sempre istruire, leggere bene, è sempre in sicurezza in tutte le cose. Che anno che è passato, rimanere alla storia un anno, l'anno più disgraziato per molti da quando sono nati, giovani o vecchi che siano, porca la miseria quante cose che sono capitate. Oi, poveri noi. Io mio caro, per carità. Voi cosa avete fatto? Già prato. Aspetta, ma c'era in 27 una corporazione, sentivano tedeschi, soprattutto il Portogallo, si sentiva il Portogallo, c'era uno che arrivava in 27, credo che fosse sul canale 40 o sul 41, arrivava, era una cosa splendida, stava parlando con degli italiani dal nord, credo, ma Portogallo proprio di fronte all'Atlantico, una cosa micidiale, chiaro, guarda come sei chiaro tu. È grande successo. Ieri sera stavo ascoltando, ma veramente dei segnali formidabili, proprio la propagazione a volte si fa di colpo e senti tutte queste stazioni che arrivano da fuori, una meglio dell'altra, segnali bassi, non è detto che siano a 8, a 9, ce ne sono certi a 2, 3, ma chiari, veramente chiari. No, detto Gunadi senza sentire nessuno, sono un giorno senza sentire nessuno di propaganda. Ma che faccio andare mai occhi, nessuno anda, fa pensare. Può capitare, forse ancora non è la stagione, non lo so. Ma che antenna hai, perché? Non è un'antenna 5 ottavi tipo coso, Mantova 1, Mantova Turbo, quelle lì. No, c'ho la Ringo, c'ho. No, ma già le sentivo anche con la Storm, le sentivo. Da chi c'hanno non ha più inteso nessuno. Forse bassa un po', cosa c'è il palazzo intorno? È un po'. No, ma già se parlano già li sento, una volta solo ho sentito i tedeschi in FM. E quelli arrivano, io li sento quasi tutti i giorni, tu figurati che se vai nel canale di sotto, no? Quelli a 26, no, 900, 800 e così via, si sentono anche i cercapersone che hanno quei rumori strani tipo tri, che sono cercapersone degli extraterrestri. Ogni tanto se ne sente uno, quindi figurate, quelli hanno pochi watt, saranno 3-4 watt al massimo, eppure si sentono. Arriviamo bene a quella zona, noi siamo, la Sardegna è molto favorevole alla Germania, alla Russia, per carità, meglio non parlarne, perché sono proprio quelli li senti spesso. Mi ricordo che c'era un periodo, un paio di anni fa, che si sentivano i taxi, che erano dappertutto, una cosa micidiale. Non li ho mai sentiti. No, forse qualcosa la sentivo, ma non capivo se erano russi o da cavolo erano. E anche loro erano in FM. Certi segnali dalla stazione base, micidiali, disturbavano dappertutto, erano anche 10 metri. Mamma mia. Poi evidentemente li hanno un po' stancati e quest'anno e anche un po' l'anno scorso sono quasi spariti, forse li hanno ordinato di trasferirsi su frequenze VHF e UHF, perché effettivamente qua davano fastidio a parecchia gente. Cioè in Russia non è che glielo chiedono per favore, e lì vengono e ti picchiano. Magari li hanno trasferiti e cosa. Non mi ricordo io sentivo molto dalla Spagna, lo sentivo molto, spagnoli, portoghesi, roba del genere. Sì, avanti sul 10 per prova apparato. Buongiorno. Sì, io qua Gianfranco da Sassari in compagnia di Antonio, sempre da Sassari. Però ti ascolto un po' in mezzo al QRM, ho capito, non ho capito se sei mobile o stazione fissa, ho capito chiaramente che stai provando un apparato, adesso ti mando avanti Antonio, se ti riuscirà un po' meglio, lo senti Antonio? Appaga, lo sento, c'è un pochettino di QRM ma lo sento lo stesso, chi è avanti? Un po' in mezzo al QRM ti sento, però già ti sento lo stesso. K. Sì, Santiago 7, è la radio un po' disturbata, però perché io ho QRM, c'ho da stamattina il QRM brutto. E ci dici dove ti trovi esattamente? Perché si è detto che sia alla periferia di Sassari, anch'io sono alla periferia di Sassari, però ti sento molto basso. C'è un'antenna esterna oppure sei un portatile? Non so, dici un po' le condizioni di lavoro, capo. Ah, ho capito, quindi c'è un'antenna magnetica praticamente che sia a bancali. Ok, ricevuto lo hai ancora a bancali, quindi non è che sia proprio vicino. Sì, l'ho ricevuto, ma lo sento un pochettino in mezzo al QRM. Forse perché c'è un pochettino di fastidio, cavolo. Sì, in effetti ogni tanto è un po' complicato, appena si solleva anche di poco il problema. Io praticamente lo sto ricevendo senza segnale, però riesco a capire quello che dice, anche se ho... No, c'è il filtro largo. Vabbè, e tu a noi come ci senti? Poi ci direi anche il nome, ce lo ripeti, perché ogni tanto ti perdiamo, K. Ok, Piero quindi, Piero da Bancali. Ti rimando avanti Antonio, l'ho ascoltato tanto, io non ho capito, ha detto che uno lo sente un po' così, però non ho capito se sono io quello che sente male o se sei tu quello che sente una radio suona. Mi è sembrato di capire così, riprendi Antonio. Capa Piero, non lo so, gli senti a me o senti a cosa? Adesso ho cambiato radio un po'. Quella là, troppo QRM mi prende. Avanti Piero, mi senti meglio adesso? K, sì, Santiago 3-4, dai, in questa radio. Però un pochettino meno di QRM, poco fa arrivavi un po' 7, arrivavi. Purtroppo abbiamo un pochettino di difficoltà a copiarti, però vai già, in qualche maniera, già anda. Ma cosa ha detto Gianfra che non ho sentito? Mi è sembrato di capire se a Sassari c'è qualcuno che si occupa di antenne o di queste cose qua, probabilmente per mettere un'antenna sopra. Guarda Piero, non te lo so dire perché siamo tutti, come si dice, autocostruttori, quindi le antenne ce le mettiamo noi, perché attualmente penso che sia molto difficile trovare qualche ditta, qualcuno che venga lì a piazzare antenne, ecco, a meno che non siano televisive. Poi non so se, ripeto, una volta c'erano, ma adesso non so neanche se esistano ancora questi che vanno a piazzare antenne per baracchino, ecco. Non è molto difficile, è abbastanza semplice, perché si tratta di mettere delle staffe, un'antenna seria e un cavo buono, tutto lì, quindi non ci vuole una grande fatica, tutto lì. Riprendi ancora Piero, se mi ha ascoltato, K. Sì, vabbè, già c'è qualcuno che lo fa, la verità, però già si può vedere, non è quello il problema. Gianfranco, Gianfranco da Sassari. Allora, come per iniziare, io ti consiglio di prenderti, cioè se vuoi un'antenna un po' performante, che sia piccola, di prenderti la boomera da Fusaro, la tari bene con lo strumento, esce una bomba, tu esci da lì, capito? Perché sono le uniche alternative che si possono usare per iniziare. Ma stai tranquillo che pompa, Gianfra sta parlando. L'ho sentito anch'io così, adesso è aumentato un po' il QRM. Con la base magnetica purtroppo non si può andare più lontano, è già un miracolo che ti ascoltiamo. Da me sei quasi senza segnale, si può dire, ma appena aumenta un po' il QRM tendo a perderti. Quindi se puoi mettere qualche cosa, anche con una staffa magari attaccata alla ringhiera, tanto di guadagnato, è sempre meglio che questa antenna magnetica da un metro che hai. Ok, niente, se stai andando via, ti saluto, grazie per essere entrato e auguri anche di buon anno. Ti mando avanti Antonio, che ha qualche difficoltà per ascoltarti perché sta salendo un po' anche il QRM. Attento. Capo, io ti do un bel consiglio, di prenderti un Rosmet, non so se lo sai usare, e ti piazzi per il momento, se non vuoi spendere tantissimi soldi, ti piazzi la boomerang, quella grande, e vedrai che tu cambierai dal giorno alla notte, perché quelle antenne spingono tantissimo, ce l'ho avuta pure io e pompava un be. Quindi io ti do quel consiglio lì, per iniziare inizia con una boomerang. Cappa, già fra fammi da ponte, perché io a malapena l'ho sentito, no? Sì, lo stesso anche per me, purtroppo sta salendo il QRM, è un po' difficile, molto difficile ascoltarla adesso rispetto a prima. Sì, cappa, non lo so, guarda, io non lo so se stai parlando, però attrezzati un po', perché noi non ce la facciamo ad ascoltarti. Comunque prendi il consiglio che ti ho dato io, a Sassari hanno quel tipo di antenna lì, per adesso, per iniziare, quella lì ti fa uscire un bel forte, ti fa uscire. C'è lo sub, lo regoli, cioè c'è lo Rosmet, lo metti a 1.1 e tu sei in una cannonata, sì, esci un bel forte poi. Capito, lo fai un 1.1 di stazionaria, o lo fai fare a qualcuno. Per il momento, per uscire per il momento va magari una cannonata. I giuli bene le parti, il PL, lo sub, il coso, dove c'è la. la pittina, e tu c'è una cannonata, e ci porta. Qua ce l'ho avuta pure io, l'ho venduta a un'altra persona, è stato soddisfattissimo di quell'antenna. Per iniziare qua va benissimo, poi quando è ti compri un'antenna più performante. Che cappa, dai, non sono riuscito ad ascoltarti. Avanti Gianfra. E anche per me adesso è negativo, si è alzato, non so se sia propagazione o cosa sia, o QRM, però non lo ascolto quasi più, è coperto dal segnale. Adesso ti ho sentito un pochino, però ti sentiamo a tratti oramai, cioè il QRM è troppo alto. È negativo Piero, mi dispiace. Si è alzato il QRM e mi sa che sta arrivando anche la propagazione un pochino. Scusami, perdonaci, ma non ci riusciamo a tirarti fuori. Lo vorremmo, cioè, signore buono, in un'altra macchina a Piazza Sassari, è vero che ti tiriamo fuori un po'. Cioè, ti metti un po' più vicino, perché non ce la facciamo veramente qua, con tutto il cuore. Vorremmo parlare anche con te. No, io non lo sento più, sento sotto lontanissime altre stazioni che stanno parlando pure, ma a lui non lo sento, sta aprendo un po' la propagazione. Ma non c'è neanche nessuno che ci aiuta, se no magari uno più vicino l'avrebbe sentito. Scusaci, ma non ce la facciamo a sentire di più, perché anche qua io sento che marazzucci, non ve l'avevo intendito. Adesso 9:20 sono a casa tua. Da me, non ho guardato, Antu, ho visto che si è aumentato un pochino, però non... prova. 2-3 prova. Sì, dovrebbe essere 9:15, giù lì. Questo è molto chiaro. A voglia, va bene, cappa. Guarda, io ho già avuto la storm e andava così. Cavolo, avevo messo quella, ma quelle boomerang sono micidiali, quelle grandi però. Cavolo, ce l'ha avuta, ma pompava che è una cosa micidiale. Sì, ce l'ho avuta anch'io ai tempi che furono. Quella che era parte in vetroresina e parte in alluminio. Andava bene, però con radialino è molto direttiva, quindi è per quello che da certe parti va bene e da certe altre va meno bene, quindi l'antenna comunque 5 ottavi è sempre superiore ovviamente. Però qualità prezzo già fra pompava un bel antenna e l'ho data una persona ed è contentissimo, e infatti qua arriva fortissimo. Considerando la grandezza, cioè anche la leggerezza, perché se ti metti una mantova 1 non è cosetta da poco, io ce l'ho avuto, l'ho dovuto togliere perché ogni tanto mi fraggiava il palo col vento che tira qua, e adesso la Game Master la piega, sì, però se la devi togliere è tutta un'altra storia, ecco, prima dovevo utilizzare l'argano per buttare a terra il palo, perché c'è un palo molto alto e ci voleva l'argano, perché sennò te ne scendeva la mazza a scendere giù il tutto. Adesso invece con la Game Master, che è molto molto leggera, insomma è molto ma molto più facile, c'è solo il peso del palo, tutto l'altro va bene. E poco fa mi è sembrato di sentire qualcuno che voleva entrare, avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti. Negativo Antu, oggi siamo solo noi due. Siamo solo noi. Come dice il detto in sassarese, meglio solo che mi accompagnate. Già lo so, Goya, meglio solo che mi accompagnate, sì. Goya. Cavolo, che palle però, è freddo ora, non si muoisce, ma va, è l'ora amara. Dillo a me, io posso anche girare che c'ho la campagna, però non fa, sì. È tutto un pantano, tutta Eva, cioè se esci fuori ti devi anche cambiare le scarpe, capito? Dovresti uscire in stivali, un casino veramente questo periodo. Speriamo che almeno faccia la primavera, anche se sono anni che non vedo una vera e propria primavera, per carità. È pesante, poi con questa storia degli arresti, che siamo agli arresti domiciliari praticamente tutti quanti, non ti basta la gana, capito? Stare a casa va bene, ti guardi la TV eccetera, però poi c'è anche un limite, non è che puoi reggere sempre attaccato alla televisione. Noi siamo anzi fortunati che abbiamo la radio, ma però anche quella dopo un po', insomma, è pesante la cosa. Che non vanno a prendersela in quel posto, cioè, ma uno non può cagazzare arresti domiciliari, inutile che la gente parla, ora abbiamo, ma noi che siamo tutti, cioè, queste cose qua fanno più male che bene, perché le persone non escono, cioè, secondo me si ammalano di più. No, purtroppo non è così, dall'epoca antica in cui c'era anche la peste, l'unica difesa era proprio il distanziamento, perché nel momento in cui toccavi qualcuno, che tra l'altro con la peste bubonica ad esempio, che c'è stata anche a Sassari, nei tempi, stiamo parlando del 1500-1400, bastava che uno si avvicinasse e la parte, diciamo, aerobica ti contagiava subito, tempo una settimana eri morto. Tant'è vero che qua Sassari l'ha portata un prete, un frate che era alghero, è arrivata una barca spagnola da Cosoli, credo che fosse dalle Baleari è arrivata questa barca, ha scaricato le merci ma c'era già la peste a bordo, prima ha attaccato Alghero e poi questo qua è scappato a Sassari e l'ha dispiegato pure a Sassari. Quindi è proprio un problema di contatto. E questa nuova versione di Covid è addirittura 50 volte più contagiosa di quello che c'era prima, quindi bisogna stare ancora più attenti. È una cosa veramente esasperante. Speriamo che questo vaccino funzioni. Altro non si può dire, ma non puoi dare la colpa a nessuno. Ora come ora, ripeto, l'unica arma è il distanziamento, per quanto ci condizioni un po' tutti, però è così. Come diceva sempre in sassarese, accappata dalla morte. Il problema è che certi laboratori l'hanno tolta questa merda, perché non è che è uscita da chissà dove, erano i muri di Bigliati e fucilati, cioè, e bombardati, grazie al suolo, questi laboratori qua che mettono queste cose qua, grazie proprio al suolo, che c'è gentaglia. Lo so, però è così. Ma dove si lavorano i cinesi? Che danno in cavata a Eddie, e poi c'è il tuburugra, grazie di cosa che fai regalo le mascherine. Vai cazzo, vogliono di queste cose, i bombardieri, dove ci sono quei laboratori lì che fanno tutte queste cose. I bigli e le frati al suolo proprio. Perché sono una massa di bastardi sono. Sì, scusa Anto, sono al telefono, ci sentiamo dopo, che mi hanno chiamato. Sì, ok. Hola, c'è qualcuno? Lanciuti con la net, come il cielo sempre blu, giù monti con la net, vieni anche tu. Che pega te, cutata. Ma è bello. E beh, Robè, mi ci va giusto. E di sì. Sempre io su. Ah, non sei in movimento, no, pensavo fosse in movimento. Perché segnale il movimento? Il movimento è segnale, guarda. Chi c'è che sta qualcuno sta chiamando sotto? Chi è avanti? Chi sei? Vabbè, riprendilo. Stavolta non lo portare il cane, Robè. batteria, ma sta piovendo, non ho neanche visto, dopo devo passare anch'io, devo uscire più tardi. Stavate 10 dati? Io? No, io mi sono che da lutto, io mi sveglio sempre presto, poi ho dormito anche male, dormo mai male io. Beh, date a lutto, io risì che mezzo, si manzano. Una cosa e l'altra, poi faccio colazione, me ne vado in soggiorno, sto sul divano, faccio la TV, mi voglio con un po' col telefono, poi mi riposo il pomeriggio. No, ma io dormo poco, mi sveglio un paio di volte la notte, cazzo, poi mi dormo a dormire, c'ho un sonno brutto io, quello è il problema grave, se non riesco a dormire più di 5 ore consecutive, e quando dormo 5 ore devo fare, mettere una candela in chiesa, perché normalmente ogni 3-4 ore mi sveglio, è brutto così. Ok, vediamo questo che sta chiamando sotto, non ho capito chi è, avanti, chi è? Buonasera, buonasera. E beh, sono finiti. Cosa sono finiti? Cosa vai alla Recci? Ti ho detto i beni sono finiti. I beni sono finiti. Giù, arrastami, dormi di più la notte. Benive! Hai capito cosa ho detto, Luca? Sì. Certo. Vabbè, ha detto che i beni sono finiti. Non ho detto così io, i beni sono finiti. E quali beni sono finiti? Croc. Dormi la notte, Robè, dormi, che la mattina poi ti alzi male. Ah, vabbè, la stabili allora, dai. E tu non sei uscito, Claudio? Sì, ho portato il cane, buh. Ah, com'è già un annaggio dei cani? Ma a me non riesci a fare qualcosa, invece di incoglierti a casa. C'è freddo, poi un po' di umidità pure, infatti è quello che mi gira le scarpe. Finché fosse stata una bella giornata, e ci dai, mi faccio un giro. Io ho visto l'anno scorso, il primo di gennaio dell'anno scorso, 2010, cos'era, 2020, il primo gennaio del 2019 ero al mare a Platamona, 2019 sono uscito con mia figlia in bicicletta, stavamo fatto un giro, e 2020 c'era il bagno, si hanno fatto quelli a Balai, c'era una giornata, penso 15-16 gradi, stupenda, ma bellissima. Il cano, Bari, un inverno brutto, piovoso. Inverno, e ancora nulla, ai cavalleri a Cacovic, c'ho degli amici cacciofai disperati, tutto buffato via, ragazzo, tutto. Già lo so, già li dà i soldi lo Stato, dillo ai politici che già li danno i soldi, a non preoccuparsi, come abbiamo sempre fatto, ce l'hanno a tutti, pezzi di merda, che non sono altri. Ok, ma su il continente io ho visto su a Milano è tutto neve, me, c'ho amici su il coso, è tutto pieno di neve. A Milano? Tu non metto la neve oggi in Argento. Minchia, io ho un sacco di amici, ho fatto un sacco di anni a Santa Cacovina, tra le ore, ho gestito un po' di cose lì. Mi dispiace un po', però sono tutta mattina, una mica mi ha toccato, la disperazione è toccata. Ettari e ettari di cacciofaglie che tu conosci, buttati via. Tutto da buttare, adesso appena ci può entrare il contrattore, entriamo e buttiamo tutto giù, giriamo tutto, cosa fai? Tutto da buttare, non si è salvato niente. La merda è quello lì, il lavoro dell'agricoltura è quello, devi pregare i santi che ti vada bene, ti permetta di recuperarne qualcosa, almeno a togliere le spese, ma è lo stesso, anch'io c'ho amici che si occupano di queste cose, ma è un lavoro troppo, dice se ti fai l'assicurazione qualcosa ti danno, però sono soldi, fate un'assicurazione ci vogliono un bel di soldi, non è che ti fanno a 200-300 euro, ci vogliono migliaia di euro per assicurarti il terreno, in base alla produzione loro ti dicono quanto produci, 50 quintali di coso a ettaro, e allora devi pagare non so cosa. E lì ti assicuri in base a quello che dichiari tu. Se sei fortunato qualcosa riesci a recuperare, se no niente, non ti date nulla se non sei assicurato. 20 articolati avremo prenotati, 20 articolati di carciofi, 20 celle frigo di carciofi per il contenente avremo. Centinaia di guarda, mi sono spaventato. Circa 200.000 euro perse. Non lo so, io ne ho un amico che però è Ussi, quello non la faceva grosse produzioni, ci aveva un paio di ettari, però anche lui, adesso non so se quest'anno li abbia fatti un po' di carciofi, perché ogni tanto cambia, che ne era stanco lui, da gelo, grandinate, cose varie, li mangiavano tutto, alla fine, vabbè, questo è anziano, e si sono messi a fare le conserve, qualcosa riescono a vendere così al dettaglio, zona di Costa Smeralda, quelle zone lì, d'estate, se lo fanno e riescono a tappare i buchi, se no diciamo sempre sotto. A me c'è una tavola di quel capannone che ci sono all'ingresso, quelle sono per cacciofaglie, 20 6 persone ci lavoravi, hai capito? Incassettare, pulire, fare, spedire, preparare, 26 persone, tutti a casa, proprio disperato. Lo so, povera. Poi quella zona di Carciofi, tutta Valle Doria, Santa Maria Foghina, è tutto pieno di carciofi, e poi ci sono anche le coltivazioni, vabbè, quelle più avanti, quello di caldo, di angurie e di meloni, di lì è pieno, però il massimo sono i carciofi. Purtroppo questo è il brutto della situazione dell'agricoltura, infatti stanno prendendo tutto da fuori, la gente dice costa di meno, non conviene più produrre qua in Sardegna, costa troppo, con i rischi poi che ti capiti una cosa del genere e perdi tutto quello che hai fatto. Luca. Vai via. Via. Ricordati se passi quel tappo che ti ho chiesto, Cla, quello per il coso del microfono. Io non ce l'ho fatta. Via. Ma più di uno ne hai di questi? No, ma li ho fatti con le ghiere, lo stesso, chiusi dall'interno, capito? Con dei tombini di plastica e poi verniciati di nero, sono bellini. E come riesci a farti? Quelli a vite, io ho quelli. Poi ne ho un altro che è di plastica, che sono praticamente i coperchi delle basi magnetiche. Quello lì sto dicendo che sono più comodi, io allora ne ho due fatti con le ghiere dei microfoni e ci ho messo un gommino, là non ho messo niente, e poi ne ho un gommino per il coso, per il 711, c'ho proprio il gommino, quelli che chiudono, se li davano per il coso, ti ricordi? Per i commutatori di antenna, base di antenna, eccetera, eccetera. Però ne voglio uno per il grande, così quando stacco anche per la polvere. Via. Sto guardando la TV, ma la verde, canale 5. Via. Che palle, che è? Siamo che sono 10, ma male. Fra un po' ci andiamo a mangiare e poi ci va via in culo la giornata, come vada. Ci sono partite a mezzogiorno e mezza, non so se gioca l'Inter o chi oggi. Carciofa è molta, così è. Cosa? Certo, i carciofi a Santa Maria Covinas, mamma mia, è il gelo che li fa. Il gelo? Dove è il gelo? Si è allagato tutto, ha piovuto di rotto, si è allagato tutto. Proprio completamente tutto allagato, le carciofaie tutto allagato. Se farà dovuto al rum, non è il gelo, no? Proprio acqua. Lo so. Vabbè, cosa? Purtroppo sono cose che succedono. E mi dispiace. Ma io già, adesso sono un po' di anni che non ci vado, ma prima ci andavo spesso. E le vedevo tutte le carciofaglie grandi. Sì, sono micro, non sono, ma comunque a chi è carinea. Sicuramente riconosciamo pure magari. Se uno ha le spalle coperte, cacchio, sono problemi grossi, perché poi tutta la cosa devi pagare, diciamo, un sacco di spese, se non hai le attrezzature per coso, per arare, per fare, le devi affittare, vari. Dico, paghi quando incassi, se non incassi cosa fai? Comunque alle 18.30 c'è, scusa, alle 12.30 c'è Inter Crotone. Cosa la guardi a fare? Manca la guardia, intanto. Il meglio gente il Crotone, l'Inter e Milan quest'anno sono i favoriti al campionato. E poi c'è Napoli-Cagliari stasera alle 3. Io non sto guardando neanche roba, tanto si ripete. Il favorito del campionato oramai, la fuga è già quella. Milan e Inter sono le favorite, quest'anno se lo giocano le milanesi, non di certo se lo gioca la Juve, la squadra dei Gavarri. Adesso vediamo, dai. Comunque almeno c'è un po' di competizione, l'anno passato, gli ultimi 8-9 anni non c'era studio, la Juve, cacchio. Aveva già vinto il girone d'andata, aveva già vinto quasi il campionato, a febbraio era già concluso il campionato, c'aveva un sacco di pumi, l'anno scorso la Juve non perde all'ultimo, per un punto mica ha vinto, se continua il campionato perde il campionato la Juve. Lo so, ma quest'anno non c'è competizione, la Champions. Champions gioca molto meglio rispetto al campionato, oppure proprio una squadra che quest'anno non ha nessun significato, quindi il valore tecnico secondo me l'allenatore non era da mettere un allenatore del genere senza esperienza, capito? Si vedrà, il pallone è tondo, ce n'è nella campionata ancora lungo, ci vorrà, vediamo se riesce a rimontare. Abbiamo portato anche 3 punti con Napoli, quindi non sono più 10 ma sono 13, perciò, no vabbè, forse non è che ci vorrebbe altri. Allora, vediamo, dai, ok, vai a tu. Sì, a avanti. Ma lo so, io non lo stavo seguendo. Comunque noi in quel posto lì, a Santa Maria Covina, se ci abbiamo dei parenti, ci abbiamo dalla parte di Babbo, e quindi conosciamo un bel di gente. E io ho fatto 8 anni lì, 8 anni ho gestito tutto, Valle d'Oria, Santa Maria Covina, Cervi Barba, tutto, Trinità, Baresi, tutta quella zona ho gestito come depurazione, quindi conosco molto molto bene tutti i calciofai. Ogni anno caccia e caccia di calciofai, alla fine anche stufo, un anno mi ho lavorato in abbondanza, capito? E poi quando finiva la cosa dei calciofi mi mandavano sempre tutti gli anni i barattoli già pronti oppure da fare, dei calciofini sotto olio, capito? Bravissima gente, mi piace molto con Giovanni e ci picchia, forse non barca i soldi, solo in esportazione 200.000 euro, forse 200.000 euro, tutto da buttare via. Spendi sempre, Eva, per carità, non si è fermata un attimo, uno schifo. Poi avevano già solcato, avevano già pulito per la raccolta, capito, erano già pronti, perché novembre, metà novembre inizia la raccolta, allora ha iniziato a piovere, a fare vento grande, ha fatto una bella grandinata anche lì, capito, ha bruciato tutto, e poi sono allagate tutte le... la campagna c'è la gatta, quindi lì quando piove, io ci ho lavorato un po', un anno ci ha messo in crisi forte, hanno tracciato tutti i depuratori, ha fatto un casino nero, capito? Ma sul Valle del Covina c'è molto molto pericoloso, anche perché c'è la diga, quindi c'è la diga dell'Ener lì, e quando scarica quella che si riempie allaga tanto e non avvisa, si aprono le parattoie come fa a fare la valle Sant'Antonio Mio. Avanti Roba. Lo so, ma dove ci sono le terme? Io ho visto un anno, un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, dove è arrivata l'acqua, non ci volevo credere. Hai visto le terme in Castelluria dove ti puoi mettere a fare quello libero, non dico dove c'è lo stabilimento, giù dove c'è il fiumiciattolo, un anno ha fatto verso maggio, non so se hanno aperto qualcosa, qualche riga, dove cacca è arrivata, sarà salita al minimo di 6-7 metri l'acqua, la testa dell'acqua dove c'è il chioschetto su, c'è arrivata l'acqua sopra, c'è un tipo che conosco, ti dice guarda una cosa mai vista. In tanti anni mai visto una cosa del genere. Quelle sono le parattorie dell'Enel. Ora, lì c'è la centrale dell'Enel, capito? Quando devono aprire per forza. E scende tutto a valle, un casino. No, ma questa non è la diga, questa è l'acqua proprio, è triste. Stava piovendo a dirotto lì, 3 giorni e 3 notti, si è allagato tutto, ti sto dicendo che ha fatto vedere anche la televisione, ha detto anche Canale 5, quindi va bene, avanti ancora i primi. Chiacca, lì è un casino già, e poi quando c'è un fiume, c'è anche il coso, come si dice, la diga, cioè quando va più di quel tanto è pericoloso, fate un casino niente, ogni tanto straluppa l'acqua dal ponte. Casino è campagna, ti dà, però quando poi c'è casino di acqua, l'inverno è un bordello, ma lui non c'è solo... Lui l'estate poi tutto piantato a morto, tutto fa esportazione, raddutto. Sì, si è raddutto. Qua fa parte la mattina. C'è il cane, bisogna riaggiare, aspira polveri, disinfettare, fare, e via. Che no, non c'è da portare in casa. Non so perché. Cos'è sta cosa? Perché, cioè, stamattina bisogna fare le pulizie in casa, e apri tutto, mamma mia quanto non lo sopporto, mi tocca punirmi la, se sono qua tocca mettermi la coperta perché c'ho freddo, poi da giù ne sale l'aria. Sì, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, poco fa ci sentiva qualcuno dal fondo, però non so chi sia, avanti, se qualcuno vuole entrare, se no riprendi tu, Anto. Ma che vuole entrare? La porta è aperta, chiudi perché c'è corrente però quando entri. Appunto, che va freddo. No, Antonio, ieri notte se ne erano finita a tardi, li ho lasciati io, poi c'era gente, ma sono andato, però erano le 8. No, ieri notte ne ho finita presto, non tardi. Entra Marco è in ottambulo, lui entra quando gli altri se ne stanno andando. Marco, ci sei? A chi di dromme era l'ultima vedda. No, ieri notte ne è molto presto, mi sono ritirato, infatti a Marco non l'ho nemmeno sentito, la verità. Telefonami un attimo. Sì, a capo. Io ho poco di offerte, se mettete un garraggio, che troverò un baracchino stamane nel mercatino, 120 euro me lo compare di nuovo, dici baracchinetti così, ma c'è preso, suga. Ma io dico, ma la gente cosa crede di vendere? Sì, penso di fare di nada i baracchini invece. Che l'ho pagato un baracchino vintage 100 euro, ma è il più che l'ho pagato proprio. Poi se qualcuno pensa che valgono di più, mi si rivende, non faccio, ma di poi c'è gente che rivende non funzionanti, capito? A 100 euro, la baramattica. Invece c'è tutti funzionanti nuovi, e il massimo che sono 100 euro. Di quei baracchinetti semplici, normali, non vedevano la ciapo. Ha detto, ma che c'è Marco, vai o cosa? Cazzo, andava di bici in casa e te lo bigli nuovo. Cioè, va di che ero più caro di Sassari. Ma da Fusaro 110 e te lo stai comprando nuovo. Cioè, cazzo, secondo te vuoi vendere che c'ha cosa 120 euro? Attenandi! E me compra uno di quelli modificati anche a 400-500 euro, visto Saturn Eco a 600 euro, gente fuori di testa, e mi compro un HF Serio con 600 euro. Hai ragione, vai, hai ragione, posso capire, nuovo, ma per più Saturn Eco non mi piace, no. Avrei preso l'S9 della Magnum, sì, ma Saturn Eco, A parte Saturn Eco è una radio che ha già più di 20 anni, minimo, le ultime edizioni, per non dire 25, e ti può sempre dare, anche se è nuovo in scatola, ti può sempre dare preventivare e ti dà qualche problema, ma c'era questo 600 euro lo stava vendendo, ma stiamo scherzando, 600 euro ti trovi già un 940, un 440 buono lo trovi a 400 euro, ma c'è un 440, non va giù un Saturn Eco. Appunto, non ne comprerei mai di quelle radio. Cioè, io se mi capita 300 euro mi prendo quell'apparecchio là, il 440, mi prendo quel tipo di apparecchio. E certo, almeno, cioè, meno problemi di disturbi prima di tutto.